qua il 12 dicembre del 69, 40 anni fa. Sì, c'è stata una strage il giorno in cui appunto c'era la cosa dell'agricoltura. Comunque appunto c'è stata questa strage e tutto un mistero riguardante i veri colpevoli, insomma, quelle che sono le stragi di Stato. E quindi insabbiamenti e presunti sospetti, delle morti sospette come l'anarchico che poi si è lanciato dal commissariato, insomma. Un po' di cose misteriose. Sono mai stati trovati dei colpevoli? Di fatto no, non si sa la verità. Quindi no. E nel periodo ti ricordi qualche altro avvenimento, qualche altra strage? Beh, c'è quella di Bologna, ad esempio. Poi... è precedente o antecedente? Oddio, questo non te lo so dire. C'è a Brescia anche un'altra strage. E però anche a Bologna, se non sbaglio, ci sono stati molti problemi riguardanti i veri esecutori. Se non sbaglio, appunto, hanno messo poi i servizi segreti, hanno messo dell'esplosivo su un treno per incolpare gli estremisti, ma poi di fatto non si sa chi sia stato. Chi è Pinelli? Non ne ho idea. Chi è Valpreda? Non ne ho idea. Chi è Zorzi? Non ne ho idea. Fantastico! Ultima cosa, ma anche se non sono mai stati trovati i colpevoli a livello giuridico, tu hai idea dai ricordi, da quello che hai sentito, a chi è stato attribuito questa strage? Cioè, principalmente hanno dato la colpa a estremisti e anarchici, però penso che sia più che altro una scaricabarile. Cioè. Poi di fatto dietro ci stanno, cioè, c'è appunto un periodo molto oscuro in cui lo Stato, probabilmente con l'appoggio degli americani, fa questi tipi di stragi per... idea mia per controllare il potere politico, poi questa è un po' l'idea che mi sono fatto io, però di fatto non lo so. Thank you.